Allez voir ce soir. Nessuno ascolto, cambio. Dipende da chi vuoi. Qui Gianni doppio ru, buonasera. E beh, fammi. Fammi un controllo, bene, sto scendendo in radio. Campa, sai, sai. 2, 3, 4, 5, sì. C'è 9, 5, la biocina. Microfono è buono? Sì. Positivo, un attimo di bianco che scendo tutto. Che cosa stai facendo? Abbinando un altro microfono a vedere se uscivo meglio, là. Perché quello là mi sa che stava andando una fanguala. Qua sto andando a fanguala, quello buono, quello che si sente bene. Allora, adesso lo devo pulire e poi vediamola. Comunque questo non sta uscendo bene. Sì, sì. Gaba. Allora chiudo tutto, adesso saldo bene e riprendo a frappì. Ciao Giorgio. Ehi ai. Chiama, cavolo. non sento bene, no? Diciamo che cacchio è, gada gada. Cosa mi hai chiesto? Senti come gira. Gira, gira, cabagaba, cabagaba, hola, hola, hola, hola, hola, hola, patatine Coca-Cola, pum. Dimmi, dimmi. Chiamo da Fabietto, metta soglia a casa sua, gaba. Sai cosa ti ha detto? La ragazza mi ha detto movietto di salire a casa sua, gaba. Quindi devi salire a casa sua, va bene, va bene. Che mi sembra che sta facendo danno. Ha fatto i buchi in un radiale, è uscito tutto storto, gaba. E deve farli con la morsa, non così. Deve mettere il radiale nella morsa e poi fare il foro. Piano piano, lento, no, a manetta, io credo che quando ne con lo coso onda. È uscito a metà del raglio. Ho detto che senz'altro che sono usciti tutti i buchi perché l'alluminio è tondo e lui forse è stato il trappo alla manetta, capito? Deve farlo piano piano. Ascolti il segnale quanto ti sta arrivando. Guarda se c'è un picchi di modulazione, pum pum. Già stai scendendo bene, sei perfetto. Quanto è il segnale? 5. No, 9-10, sì, qua. Gara, gara. Ciao. codina, codina. Farallino. Farallino che conto, capa. Capa a capa. Così la radio più pulita andrà bene. Stomello. Dimmi. E come so con questo apparato? Qual è il segnale? 8, radio 5. Molto più forte di altri giorni. Meglio di come ci arriviamo con l'altro apparato? Oggi arrivi più forte, boh. Sei quasi 9, ma arrivavi 7. Ok, ok, Roger. Tra l'altro, quella volta mi ha creato problemi di ricezione. Se ne è scesa la ricezione oggi, guarda, una cosa. Il valvolare crea sempre problemi. Cosa si perché con come state sì? No, c'avevo il perception valvolare a 10 fatti, però trasmette con i 10, però la ricezione se ne è scesa, Antonio. Mi stavo ascoltando stamattina la conversazione e niente, c'è qualcosa che non va. Guarda la valvola, dai un colpettino ogni tanto, guarda la valvola amplificatrice. Ma è nuova, Antonio, la valvola amplificatrice l'ho messa nuova e altra roba, già lo so, già le valvole sono tutte e due nuove, quelle proprio amplificatrici, sia del finale che come si chiama, che del ricevitore e qualche altra cosa dei conversatori sicuramente. Controllagliela allora. Piano piano, io c'è lì, c'è lo schema. Ok, no, ma tu mi stai dicendo che con questo arrivo meglio? Arrivi bene con questo, perfetto. Ok, ma Pierpaolo c'è anche? No, Pierpaolo non c'è, c'è il palchetto. Infatti, in ricezione sono al palchetto, io l'ascolto un passo. Adesso lo chiamo, attento al palchetto. Aprile, buongiorno, mi hai ascoltato. Buonasera, chi sei? L'anima lunga, Salvio, buonasera. Oh, ciao Salvio, buonasera, io ho cambiato apparato, infatti questo c'ha l'autoparlante da un'altra parte, quindi quando faccio di nuovo a pigliarle orecchio, come ti arrivo con questo Salvio? Se sei in QTH fisso mi dai un controllo. Una bomba, sì. Segnale 9 più 10, radio 5. Se puoi contraccambiare il tutto qua, che stiamo usando basse potenze, stiamo uscendo proprio con 2 watt. Ecco, diciamo che qui mi arrivi 9,5, mi arrivi. 9,5 sta bene, una radio perfettissima, e l'altro però come ricezione il valvolare era migliore, non so, l'avevo messo tutto a posto, ma c'era dei condensatori, io sono stato attaccato tutto il giorno, e capito, si vede che è qualche cosa, poi ho questi componenti che c'erano lì, non è che li becco, e c'è qualcosa, sui valvolari sono così, basta che pigli un minimo coso e... Però è bellissimo, io ce l'ho qui di fronte, c'ho il Costa, ne ho altri. Io sono stato sempre un patito perché anche le valvolari, però quelle lì hanno i loro problemi, è come i vecchi televisori e niente, se hanno fatto il transistor vuol dire che è una cosa più ok. Riprendi a com'è? Via, aspetta che sto diventando scemo, sto cercando una cosa, aspetta un attimino. Breco, breco. Avanti. Ciao Capri 2, tornato, cambio. Ciao Giuseppe, buonasera. Qui ho cambiato, dovuto cambiare apparecchio perché il valvolare in ricezione sta dando un po' i numeri. Non so cosa gli sia capitato, invece la radio tua adesso qui me l'ha diminuita e con l'altro arrivato sembravi seduto vicino. Non lo so, io ho cambiato apparato, Giuseppe, come arrivo con questo? E qui stai arrivando a bomba, Capri 2. E radio 5, Santiago 9, cambio. Ok, allora però io la ricezione, quello là in ricezione, mi dava di più, io ero più partito per la ricezione, per ascoltarvi vicini. E niente, già lo so che questo va in trasmissione, va. È la ricezione che mi interessava per essere, diciamo, proprio, hai capito, come vi ascoltavo ieri. Invece c'è qualcosa che non va sul valvolare, ho cambiato apparecchio, ho cambiato e niente, vabbè, se arrivo io, come, però non ti sento benissimo, mi. Però con l'altro, con il valvolare da un altro, un certo che, ve li devo far sentire io le differenze. Il valvolare in ricezione da un certo che. Riprende Saverio. Positivo, vai. Salutoni Giuseppe, è tornato, Ben ascoltato. Salute anche a te Saverio, ben sentito e ben rientrato, cambio. Salutoni Lucaria. Giuseppe è tornato, ti mette il cappottino, adesso provate a attenuarlo. Cazzo, è in basso, già qui, devo fare la prova. È davanti a te, proprio davanti a te, a due passi. Cioè, tu scendi, apri il portone, fa la curva, c'è arrivata a casa sua, ma ci devi fare la salita. Brava, infatti ieri ha detto, lo sento saturo, e a ti grido, siamo gli occhi. Saverio, e ne approfitto per salutare l'amico Luca, e cordialità e ben sintonizzato qua sul 21, Luca. Ciao, ciao anche a te Giuseppe, sentito, buona domenica. Avanti Gianni, anche a te salutoni, buona domenica, a te il mic, ciao a tutti comunque. Prego. Buonasera Luca, ben sentito. E il Capri2 ti cordializza, io stavo dicendo, cambiando apparato, il valvolare, in ricezione c'è qualcosa che non va bene. E quindi niente, interferò il microfono del valvolare di nuovo su questo apparecchio e voi mi arrivate bene, però col valvolare c'è un certo che di modulazione, di ricezione più bella, e quello mi dispiace molto. Poi di farmi sentire adesso non ho problemi. E niente, Giuseppe, ti rimetto il cambio e fai girare. Prego. Ok, grazie Capri2, ho registrato un preco e lo mandiamo subito avanti. K, buonasera, da questa parte stazione Palchetto che vi super cordializza tutta la ruota. Se copiate stazione precaria qua, cambio. Io copio alla grande Palchetto, sentiamo gli amici a giro, avanti. K, salutoni Palchetto, ben ascoltato. Ma lo senti a Capri2? Mi stavi imbrecando sopra, non lo senti? C'è Lucariello e Capri2. Mi scuso per il break sopra Capri2, dai, mi scuso di nuovo, dai, riprendete. E mi senti perché? Positivo Capri2, buon ascoltato anche a te, già ti sento, tu mi senti in quelle coordinate, cambio. R perché che ti sento, però sto usando il transistorizzato col valvolare, eri una meraviglia e non so io. Adesso l'ho fermato, questo c'ha un parecchi anni e c'ha 40 anni minimo il valvolare. L'avevo messo a punto, stavo modulando anche ieri, perfetto, come ricezione mi aumenta di brutto. E adesso non so cosa cavolo è capitato, stamattina l'ho acceso e c'è qualche cosa che non va, perché la vecchiaia fa quei scherzi ai condensatori. Perché in trasmissione va anche troppo bene, però a me interessava perché c'era la ricezione molto bella, invece adesso bisogna attaccare questo e lascio questo, se no qui non ne capiamo più piedi. E niente, gli altri mi arrivano, io a te qui ti ascoltavo prima col valvolare molto migliorato, qualche, capito? E adesso uso questo e niente, Luca mi arriva bene, Giuseppe mi arriva bene e Sabino lo stesso. Hai capito? L'altro segnali minimi me li raddoppiava, riprendi Saverio. Positivo. ascoltando in cuffia e che mi devo preparare, devo andare a dare una mano a un amico per dei radiali che ci ha appeso delle sverghe d'alluminio e dobbiamo tagliarli a misura per la vantova turbo.